Da sempre l'America ha una grande storia d'amore coi cani. Oh, Pongo, it's her. I cani parlano, diventano umani, come in questa sequenza che vi ho appena fatto ascoltare, tratta dalla carica di 101, con Pongo preoccupato dall'arrivo di Crudelia DeVille. Avrete sentito certamente storie di miliardari che lasciano milioni di dollari in eredità ai loro cani, di rifugi che sembrano degli ospedali, di canili che sembrano un albergo. Insomma, c'è una passione tale che l'anno scorso, con l'economia in contrazione, il settore, diciamo, dei servizi per animali, soprattutto cani, ha fatturato 53 miliardi di dollari. Solo in spese veterinarie sono state 19, ed è stato uno dei pochi settori al rialzo. Beh, con la recessione ci si consola con il proprio cucciolo. How much is the dog in the window? Quanto costa quel cucciolo in vetrina? Un classico delle canzoni per bambini americane. Beh, le previsioni parlano di un fatturato di 72 miliardi di dollari per il 2014 per il settore. Pensate, un'azienda italiana di Bergamo, che si chiama OPR, ha fatto fortuna producendo uno stampo per la Kong, che fa giocattoli per animali, giocattoli per cani, un giocattolo in gomma resistente con delle forme irregolari che contengono persino dei croccantini, ed è stato un successo devastante sul mercato.